Podcast episodio 9. Ben ritrovati su Nerdcast, episodio numero 9. Si ritorna a registrare dopo secoli di assenza causa, insomma, esami. E comunque adesso gli esami sono finiti e adesso si può tornare a registrare, che bello. Allora, prima di iniziare, dei ringraziamenti veloci ad alcuni podcasters e ai loro podcast, perché, insomma, durante questi mesi non ho registrato ma ho ascoltato molti podcast e sono stato citato da alcuni e la cosa mi ha fatto molto molto piacere, quindi grazie, insomma, ai soliti Julien, Rouge, poi anche mi ricordo di essere stato citato a Quattro Amici al Byte, che insomma è un podcast relativamente giovane, dico relativamente perché insomma i quattro podcasters sono abbastanza vecchi, tra virgolette, insomma. Grazie a tutti quanti. Comunque Nerdcast è tornato. Ho avuto dei problemi di vario tipo. Adesso spero di avere una cadenza abbastanza regolare. Però credo anche che tutti i miei ascoltatori mi abbiano ormai abbandonato, perché io mi sarei abbandonato, poi, vabbè. Ok, andiamo avanti. Nerdcast, novità, nel senso che sono riuscito finalmente a trovare delle canzoni Podsafe giapponesi, nel senso J-pop e J-rock, le stavo cercando da molto tempo. Quindi, evitando di essere logorroico come sempre, arrivando a sfiorare le due ore, mettiamo una di queste canzoni. Questi sono gli Andy Mori, credo si dica Andy Mori o Andy Mori, con una canzone che si chiama 1984. A dopo. ロックスターを追いかけた、か弱い僕。 時のサイレン、6時の一番星、ファンファーレと熱狂、赤い太陽、5時のサイレン、6時の一番星。 Così questa canzone abbastanza poco radiofonica come finale, però insomma molto bella. L'ho trovata insieme ad altre tante canzoni J-pop in dei podcast giapponesi, appunto, che potete trovare su www.podshower.com. Però insomma sono podcast giapponesi, quindi oltre alla musica non ho capito più nient'altro. Ma insomma va bene anche così. Dunque, Nerdcast, non so se ve ne siete accorti, probabilmente no, perché non me ne sono accorto neanch'io. Nerdcast ha compiuto un anno, più o meno un mesetto fa. E in un anno sono riuscito a registrare soltanto 8 puntate. E non è un risultato eccellente, devo dire la verità. Però ci rifaremo. Cercherò di essere un po' più regolare. In ogni caso, andiamo avanti. Dunque, parlavo di novità prima. La prima novità è questo cambio di musica, appunto. La seconda, ne parlerò dopo. Un po' più dopo. Adesso andiamo avanti parlando di qualcosa che c'entra più o meno con i videogiochi. Dico più o meno perché non faccio nessuna recensione, non vi consiglio nessun tipo di programmino, però voglio parlarvi di un documentario. Allora, il documentario in questione si chiama Razer, The Hacks Life, cioè Razer 2. The Hacks Life, a cui metterò il link poi nelle note. Praticamente è un documentario interessante, nel senso che si parla della vita del giocatore esperto in Corea. Cosa vuol dire? Chi un po' mastica di giochi online forse saprà che si dice che i migliori giocatori del mondo online, ovviamente, in generale, siano i coreani. Allora, io questa cosa la sapevo da molto tempo, però non ci ho mai fatto neanche troppo caso, insomma. Credevo fosse una diceria, perché insomma si sa che i giocatori coreani giocano davvero tanto, tantissimo, quasi tutto il giorno praticamente. E fino a quando non ho visto questo documentario, The Hacks Life. Allora, The Hacks Life parla dei giocatori coreani più famosi al mondo, che sono Moon e Nada. Allora, chi sono Moon e Nada? Moon è il campione mondiale di Warcraft 3. E Nada è il campione mondiale di StarCraft 1, si intende. E appunto, nel documentario vengono descritte le loro vite, come si comporta un videogiocatore professionista, qual è proprio la sua vita, che cosa deve fare, cosa non deve fare. Allora, devo dire una cosa in partenza. Devo dire che pensavo peggio, nel senso che sapevo che insomma, i giocatori coreani fossero pazzeschi, animali proprio, però sembrano quasi esseri umani, dico quasi perché insomma, non hanno ovviamente una vita regolare. Adesso non mi ricordo bene esattamente le ore, come venivano smistate le ore dalla loro giornata, ma insomma, sicuramente hanno pochissimo tempo libero e soprattutto una cosa che mi ha abbastanza sconcertato è stato il fatto che per mantenersi vincenti, come dicono loro, fanno anche palestra, cioè la palestra è importante per i videogiocatori professionisti perché aiuta a mantenersi insomma in forma fisicamente, ovviamente. A mantenere il focus mentale, no? Durante tutte le partite, e quindi in un certo senso fare il videogiocatore professionista è anche qualcosa di salutare, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, sembrerebbe tutto rose e fiori, no? In realtà, cosa costa fare il videogiocatore professionista? Bisogna dedicare praticamente tutta la propria vita ad eccellere nei videogiochi, almeno in due o tre videogiochi, e continuamente giocare a questi. Quindi, se io mi appassiono a un videogioco online a cui penso di essere molto bravo, potrei fare di quel gioco la mia professione. Quindi diventare che ne so, un espertissimo di Call of Duty 6, quindi entrare in una compagnia di videogiocatori, perché esistono, e organizzano tornei, eccetera, e dedicare proprio la mia vita a diventare un'eccellenza in quel gioco, e fino a un certo punto sembra anche bello. Però, che ne so, col passare degli anni, magari inizierei un po' a seccarmi di giocare a quel gioco, inizierei un po' a distaccarmi, no? Però, essendo diventato ormai questa la mia professione, devo continuare. Ed è proprio quello che stanno facendo Moon e Nada da almeno 6-7 anni, nel senso che loro sono dei ragazzi tra i 26 e i 28 anni, e da quando finirono il liceo, praticamente loro hanno intrapreso questa carriera di videogiocatori professionisti, no? Partecipando a tornei e non facendo altro che giocare per tutto il resto della loro giornata o della loro vita proprio. Perché parlo di questo? Parlo di questo perché in effetti in Oriente, in Asia, c'è una cultura del videogioco completamente diversa rispetto alla nostra o a quella americana. Io ho delineato due profili di videogiocatore, no? Asiatico. C'è il videogiocatore nerd barretta otaku, che è quello che gioca per se stesso e da sé, nel senso che si chiude nella sua camera e gioca continuamente ad un gioco magari non proprio online, fin quando non riesce a completarlo al 110%. E questi sono videogiocatori, diciamo, più otaku che veri e propri professionisti, perché insomma, poi parleremo meglio dell'otaku, chi è proprio un otaku, eccetera. E la seconda tipologia di videogiocatore asiatico, secondo me, è proprio questa, cioè il videogiocatore incallito online che dedica la propria vita soltanto a quel gioco. E finché si tratta di giocare a giochi di strategia o FPS, magari una certa concezione di chi si è si può mantenere, però se si passa a giocare ai MORPG, ovvero ai MMO, agli RPG, giochi di ruolo, come appunto il celeberrimo World of Warcraft, si può perdere la propria personalità. E questo è il caso invece dei cinesi. È successo più o meno, credo, se non sbaglio, 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, che con l'uscita dell'espansione, la terza espansione di World of Warcraft, Wrath of the Lich King, diciamo, l'espansione è stata bannata in Cina. E perché è stata bannata in Cina? È stata bannata dal governo cinese, poiché mi era stata ritenuta offensiva in varie maniere, eccetera. Comunque, non è tanto il fatto che è stata bannata, ma più che altro questo ha causato la perdita di tantissimi giocatori per la Blizzard. Quindi è successo questo, è successo che molti videogiocatori, non avendo la possibilità, videogiocatori cinesi, non avendo la possibilità di poter continuare il proprio personaggio, no? Quindi in un certo senso la loro esistenza che era attaccata a quel personaggio, alcuni si sono suicidati, altri sono andati a manifestare, insomma, duramente davanti al ministero e tutto il resto. È stata una protesta talmente dura che alla fine il ministero cinese ha deciso di commercializzare anche Wrath of the Lich King in Cina. Il problema di World of Warcraft in Cina, però, secondo me è diverso, e vi parlerò in una maniera abbastanza personale, nel senso che una volta, un bel po' di tempo fa in realtà, sono riuscito ad entrare in un server cinese con quella che, insomma, 3 anni fa era la mia guild, quindi la mia ex gilda, soltanto per dare fastidio ai server cinesi, quindi per nessuna motivazione in realtà. Quello che abbiamo visto è stato il caos totale, nel senso che per prima cosa i server di World of Warcraft in Cina sono pompati al massimo, nel senso che possono trattenere tantissimi PG loggati tutti nello stesso momento, e secondo me è impossibile giocare, o comunque è impossibile dialogare con altri personaggi nel World of Warcraft cinese, perché chi ha masticato un pochino World of Warcraft saprà che, insomma, ci sono le capitali, no? Le città più importanti. Io sono finito a Stormwind e c'è stato una sorta di blocco totale del mio computer e anche di quello dei miei compagni, perché l'ammasso di cose proprio presenti sullo schermo in quel frangente era proprio tantissimo, e non riuscivamo proprio a giocare, quindi avevamo difficoltà proprio a muoverci. E nello stesso tempo la chat, diciamo, anche essendo stata smistata, no? In 4 canali, era completamente affollata, non si riusciva proprio a comprendere che cosa accadeva, chi stava parlando, cosa stava dicendo, ovviamente, in Cina. Però, cioè, non voglio dire che le chat non siano affollate, anche nei server europei, per esempio, però era qualcosa di pazzesco, era una sorta di... cioè, era una... abbiamo visto una miriade di colori, no? Riempirci lo schermo, e poi insomma, siamo sloggati ovviamente, perché non riusciamo più a capire niente, nel senso, significa che i videogiocatori di RPG, soprattutto in Asia, secondo me sono un pochino troppo attaccati al gioco stesso, ed è per questo che appunto i migliori videogiocatori del mondo sono asiatici, le prime compagnie di videogiocatori sono nate in Asia, i videogiochi, diciamo, più giocati, appunto, hanno largo mercato in Asia, eccetera. Nel senso, c'è una grandissima differenza, no? Tra i videogiocatori europei, americani, e i videogiocatori asiatici, nel senso che sono proprio due mondi completamente diversi. E questo è strano, perché Mi è stato detto da alcuni amici che girando per le città più importanti, per esempio del Giappone a Tokyo, è difficilissimo trovare dei negozi, per esempio di videogiochi, appunto, se non in delle aree specifiche, o vedere qualcuno che gioca, che ne so, al Nintendo DS per strada o alla PSP. Perché, secondo me, sono. Chi gioca non fa parte della vita in generale, quindi è presa proprio come una sorta di droga vera e propria, no? E questo spiegherebbe perché non molti titoli in Giappone vanno forte, però quei pochi che vanno forte vanno fortissimo, nel senso che vengono. Cioè, il 90% di alcuni titoli, il mercato di questi titoli è. Solamente in Asia o in Giappone ed è una cosa abbastanza sconcertante. Quindi, se ne volete sapere di più, andatevi a vedere questo documentario di 40-50 minuti su YouTube. Sì, su YouTube, la metterò nelle note dell'episodio. Noi andiamoci intanto ad ascoltare un'altra canzone. Questa volta sì, sempre J-pop. Sono i Molis con i Nori e ci sentiamo dopo. i nori. E andiamo avanti. È davvero difficile parlare di nuovo al microfono dopo tutto questo tempo di stop, però insomma, spero di non annoiarvi, ma insomma, cercate di comprendermi. È difficile tornare proprio a registrare. Vabbè, allora, il prossimo argomento l'ho preso da 4 amici al byte, e dal primo episodio. Loro parlavano praticamente di questo gioco per DS che si chiama Love Plus, dove l'obiettivo principale è conquistare una delle ragazze protagoniste del gioco. E insomma, loro discutevano del fatto che questo ragazzo giapponese, cioè questo ragazzo giapponese che avendo conquistato, no, una di queste ragazze nel gioco, ha deciso di sposarla nella vita reale, quindi praticamente si è sposato con un DS. E' sposato con un DS, lo so, è strano, ma è così. Comunque, che ho fatto? Sono riuscito a procurarmi il gioco e l'ho provato. Tralasciamo come sono riuscito a procurarmi il gioco, tramite quali mezzi. Insomma, non proprio legali, però insomma, vabbè. L'ho provato e sono rimasto abbastanza schifato, proprio orrendo. Perché l'obiettivo è appunto conquistare una di queste ragazze in limite massimo di 100 giorni. Ma per farlo, per prima cosa bisogna avere moltissima pazienza, perché il gioco è abbastanza monotono. Per quel poco che l'ho giocato, e giuro che l'ho giocato poco, perché mi ha fatto schifo abbastanza, insomma, non l'ho trovato interessante. E appunto è stato difficile continuare a giocare, perché era abbastanza monotono, nel senso che bisognava sempre cercare di puntare, no, tra virgolette, una di queste ragazze e inventarsi, in un certo senso, dei modi per conquistarle. Il problema è che i modi per conquistarle sono sempre uguali e sono seccanti. La cosa che mi ha fatto desistere, no, dal giocare è il concept in generale, nel senso che è proprio una presa per il deretano, ecco, del genere umano, sia di maschi che di femmine. Di femmine perché la reazione delle ragazze era proprio esagerata al massimo, proprio... non era reale, cioè non è così che reagiscono veramente le ragazze, credo. Poi non conosco quelle giapponesi, magari può darsi che sia così, ma proprio erano reazioni idiote, nel senso che ad una banalità, no? Magari iniziavano ad arrossire senza motivo, cioè delle illustrazioni fatte apposta per prenderti in giro. E appunto è una presa in giro pure per gli uomini, nel senso che... Non ha proprio senso continuare a giocarci. È qualcosa di... cioè, mi viene davvero l'orticaria a giocarci di nuovo. Non lo so, non mi piace. Sarà che non è proprio il mio gioco preferito, però insomma, no, non mi piace. Vabbè. Comunque, per chi volesse provarlo, sappiate che come gioco è anche abbastanza difficile. E poi comunque c'è un seguito. C'è un seguito che si chiama Love Plus Plus, cioè una più dopo Plus. E sono state implementate altre cose. Insomma, non è che il gioco cambi tantissimo. Secondo me è un gioco abbastanza per sfigati, nel senso che i videogiocatori già da sé sono... cioè, non che sono sfigati, però hanno questa fama, no, di essere sfigati. Poi con quest'altro gioco, no, è proprio l'apice della sfiga, secondo me. È una cosa abbastanza schifosa. A parte che, vabbè, poi parliamo di Giappone. Il Giappone è una... come sappiamo, insomma, è una nazione a sé. Leggevo, infatti, l'altra volta, correlato a questo, che vanno di moda in Giappone i matrimoni celebrati dai robot. Insomma, c'era questa coppia, no? che si è sposato tramite un prete robot. Che insomma è andato pure tutto abbastanza bene. Sono riusciti pure a sposarsi. Il fatto è che cioè, mi sembra proprio strano il fatto che ci sia tutta questa passione a volersi rovinare la vita, no? Cioè, non rovinare, però, insomma, prendere alla leggera certe cose, per esempio i matrimoni, insomma, sposarsi con un robot è un conto, però sposarsi con un DS è proprio la cosa più orrenda di tutte. Vabbè, questa è. Questo in un certo senso mi ha fatto venire in mente, no? Un gioco del fine anni 80, un famosissimo, si chiama Mega Man. Allora, in Mega Man, Mega Man è ambientato ai giorni nostri, nel senso che i creatori di Mega Man credevano che nel 2000 e qualcosa fosse stato possibile che la vita umana fosse controllata dai robot, dal lavoro dei robot, no? Cioè, non è proprio così, cioè, assolutamente non è così, perché, insomma, i robot ci sono, ma mica sparano dalle braccia come Mega Man. Però, soprattutto in Giappone, no? Questo volersi dare proprio alla tecnologia, no? Un pochino troppo obsoleto. Nel senso, tutta questa puntata è dedicata praticamente al mio odio, quel poco che ne ho, insomma, quel poco odio che ho per il Giappone. Nel senso che ci sono delle cose che non mi vanno, come abbiamo detto appunto prima, il fatto che i videogiochi vengano visti come una sorta di scopo, no? Della vita. Oppure il fatto che appunto ci sia questa superficialità in certe cose, insomma, queste cose un po' mi danno fastidio, ma per il resto il Giappone è il posto più bello del mondo e l'Italia fa abbastanza cagare rispetto a questo. Vabbè, partiamo invece con una canzone J-Rock. Sono stato molto breve, sono promesso che sarei stato molto breve. Partiamo con un'altra canzone J-Rock. Così non stiamo nell'ora come sempre, cerchiamo di diminuire il tempo di Nerdcast. Questi sono i Suisei No Boas con Poolside Murder Case. Buon ascolto. Issei Nobuhaz Poolside Murder Case. Oh, sono riuscito finalmente a essere breve in un cavolo di punto che mi ero messo e ce l'ho fatta, e quindi magari Nerdcast sarà anche meno di un'ora, perché la mia volontà era fare un podcast di meno di un'ora, anzi di mezz'ora. Poi ovviamente sono sempre venute fuori puntate lunghissime. Comunque, allora, adesso posso parlarvi dell'altra novità di Nerdcast. Avevo in mente già da un bel po' di tempo di fare degli extra, insomma delle puntate extra, fuori anche dalla cadenza regolare, no? Di Nerdcast, un po' cadenza random, per parlare di argomenti specifici, nel senso che, visto che mi piace parlare mezz'ora di un argomento e questo mi fa saltare tutti gli altri argomenti, ho deciso di fare, che farò anzi, delle puntate dedicate ad un argomento e basta. E questi argomenti sono proprio i videogiochi, nel senso che mi piacerebbe fare delle puntate dove recensisco dei videogiochi che hanno fatto la storia, no? Del mondo videoludico, no? Delle console, dei videogiochi in generale. E avevo in mente di partire con uno dei Final Fantasy, visto che, insomma, li ho giocati tutti, mi sono piaciuti tutti quanti, e quindi aspettatevi dopo questo Nerdcast numero 9 anche un Nerdcast extra numero 1, in cui parlerò approfonditamente, no? Di un gioco che, insomma, adesso sceglierò, non lo so, vedrò. E quindi, insomma, Nerdcast finalmente si stacca. Non riesco a staccarmi dalla cadenza regolare, e riesco a fare un po' questi extra e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Quindi rimanete sintonizzati, perché prima o poi, credo prima della fine di luglio, riuscirò a registrare anche Nerdcast extra. Comunque, mi sono ricordato durante la canzone di un altro film documentario, no? Simile a The Hack's Life, che però non parla della vita dei videogiocatori in Asia, ma parla della vita dei videogiocatori in America, o comunque in Europa. Cioè, ci sono due facce, no? Cioè, prima facevo questa distinzione tra i videogiocatori europei e americani e i videogiocatori asiatici. E in effetti mi sono scordato completamente di dirvi che c'è anche un altro documentario che è proprio un film, anzi non è un documentario, è un film documentario, in cui si parla invece di colui che è ritenuto essere il miglior videogiocatore del mondo, che va sotto il nickname di Fatality, vero nome non ricordo al momento, e appunto... Se andate a cercare Fatality, probabilmente vi uscirà questo ragazzo biondo canadese, che, essendo stato strumentalizzato dal marketing, come proprio si vede, si nota che è proprio uno strumento del marketing, è diventato uno dei videogiocatori più premiati, no? E quindi detto anche uno dei più forti al mondo, se non proprio il videogiocatore più forte al mondo. È in Frag, appunto questo documentario, si parla della vita anche di Fatality, di quello che fa, di come continua a vivere, eccetera. Insomma, io non ho mai creduto in Fatality o comunque nei videogiocatori più forti o più scarsi. Nel senso, per me i videogiocatori sono quelli, no? Il videogiocatore è colui che si connette e gioca, ed è un videogiocatore, cioè... Poi può essere anche un noob, nel senso un novellino, no? O può essere un super pro, eccetera. Però videogiocatore è quello. E mi dà fastidio, proprio mi dà fastidio visceralmente, quando qualcuno, non lo so, viene reputato il miglior videogiocatore del mondo, il dio di questo gioco, eccetera. Nel senso che... Non lo so, non ha senso, secondo me, no? Cioè, proprio... Non mi quadra, non ha senso. E, comunque, vi consiglio di di andarvi a vedere anche Frag. Frag the Movie si chiama, metto anche questo nelle note dell'episodio. E fatemi un favore, non comprate niente che sia firmato da Fatality, perché ovviamente su questo benedetto ragazzo è stata creata una sorta di business, perché ormai ci sono le cuffie di Fatality, microfono di Fatality, tappetini del mouse, anche computer, c'è tutto di Fatality, e costa una strabordata di soldi. E alla fine la qualità è quella che, insomma, si può trovare anche, che ne so, da MediaWorld, dove volete voi. Insomma, quello è. Non è niente di speciale, non cadete in queste cose. E comunque, voi andate a vedervi questi documentari e divertitevi un pochino. Allora, vi ricordate che Nerdcast aveva le parodie? Sì? No? Non vi ricordate? Io mi sono ricordato qualche ora prima di registrare questo episodio e ho fatto un'altra parodia. Prima parlavo di Mega Man, e infatti la parodia è proprio di Mega Man, gioco del primo Mega Man uscito nel 1987 per NES, gioco un po' dimenticato. E vabbè, facciamo parlare l'elegantissima voce meccanica e noi ci rivediamo dopo. Mega Man è un gioco per malati mentali che soffrono di sindrome da sparacaccole e girano per le strade con un casco blu in testa. Il protagonista è un bambino metà uomo metà ananas che nacque con un cannone al posto del braccio e dei capelli blu che non si lava mai. In Giappone Mega Man è conosciuto come Rockman, probabilmente perché in Giappone lo cagano di più e quindi ha un nome più figo. In totale i giochi dedicati a Mega Man sono ben 117, divisi in 11 serie ed una trentina di console. Nonostante ciò, al giorno d'oggi non se lo caga più nessuno e secondo un recente sondaggio è meno preferito di Giulia Passione Shopping. In ogni capitolo, Mega Man dovrà affrontare altri bambini metà uomo metà ananas come lui, nati senza un apparato riproduttore funzionante. Tra di loro vi ricordano dei boss come Duppamen, Scarpamen, Cacamen, Superman, Bananamen, Attento ai Piedimen, Vacamen, in questi giorni fa molto Caldomen, Petomen e Ruttomen. Il primo Mega Man uscì nel 300 avanti Cristo come gioco del NES ed ebbe un grande successo. Fu così grande che sul NES uscirono ben 74 capitoli del gioco, solo che al giorno d'oggi ne rimangono solo 6. Oltre al NES, Mega Man uscì anche su altre console del futuro in nuove versioni. Tra le più famose si ricordano Mega Man X, Mega Man Legend, Mega Man Casalinga, Mega Man Anoressico, Mega Man alle Hawaii, Mega Man la Baldracca, Mega Man diventa Superman e Mega Man Casalinga 2. In ogni capitolo della saga, Mega Man dovrà affrontare dei robottoni cattivissimi sparacaccole, per poi doverli affrontare un'altra volta prima del boss finale, per poi affrontarli nuovamente nel prossimo episodio. In effetti essere Mega Man è abbastanza uno schifo. Mega Man veste con una tutina blu molto attillata e un casco non omologato che non si caccia mai probabilmente per non dimostrare la sua evidente calvizie. Il dottor Willy è l'antagonista che ritorna sempre in ogni gioco di Mega Man e puntualmente perde per poi tornare ancora. Riguardo a ciò, molti fan della saga pensano che in effetti il dottor Willy sia Dio. Nella serie X di Mega Man si può giocare con un altro personaggio chiamato Zero, il quale morirà verso la fine del gioco rivelando a Mega Man la sua omosessualità. Così, in preda alla depressione, Mega Man entrò nel tunnel della droga e perse progressivamente popolarità, fino a ridursi a comparsa nell'ultimo gioco dei Pokémon, facendo la parte della sfera Poké. In effetti gli ultimi due giochi usciti per PlayStation sembravano dei film d'azione recitati da Bruce Willis senza gambe. Negli scorsi mesi Capcom ha però annunciato un nuovo capitolo della saga di Mega Man, del quale però non si hanno più notizie da quando si tuffò in una palude di sanguisughe per scherzo. C'è però chi giura di averlo visto lavorare come casalinga. Mega Man casalinga vero e proprio, insomma. Non si vede più da chissà quanto tempo. Vabbè. Allora, io ho finito gli argomenti per Nerdcast numero 9. Ammetto di aver registrato abbastanza velocemente perché avevo voglia di ritornare, quindi diciamo meno argomenti del solito, lo ammetto. Però vabbè, mi è piaciuto ritornare. È stato, cioè è ancora adesso difficile parlare come vorrei io perché insomma è passato molto tempo dall'ultima volta che ho parlato, però appunto rimanete sintonizzati per Nerdcast Extra numero 1, se riuscirò a registrarlo proprio in questi giorni. Una cosa importantissima, non ho dato i contatti, non ho dato i contatti, dannazione. Allora, i contatti, tre principalmente. Allora, l'email è nerdocast@gmail.com. Scrivetemi, mi raccomando. Il blog dove posterò anche questa puntata è www.nerdpodcast.blogspot.com. Un'altra cosa, vediamo. Twitter, sì, Twitter. www.twitter.com/nerdfaz, FAZ. Se volete aggiungermi, in effetti Twitter io dovrei utilizzarlo di più perché Twitter è molto più figo di Facebook, per esempio. E vabbè, cercherò di essere presente anche su Twitter. Dai, cercherò di essere presente anche su Twitter. Vabbè, io vi lascerei proprio all'ultima canzone. Spero che abbiate gradito questo ritorno di Nerdcast. Ah, ecco, un'altra cosa mi sono ricordato adesso. L'altra volta, mentre stavo cercando il mio podcast su iTunes, ho visto una sola stellina alla review del podcast, messa da non mi ricordo chi, non conosco chi. Comunque, se mi stai ascoltando, tu che hai messo una stellina alla review del podcast, allora ho capito che magari ascoltando le prime puntate sembra che sia, anzi, è un podcast abbastanza schifoso perché nelle prime puntate ho avuto un po' di problemi audio. Però, insomma, io una stellina sento di non meritarmela. Cioè, almeno due, ecco, due più o meno. Però una stellina è proprio demoralizzante, è proprio brutto. Scusami, lo so, forse non mi stai ascoltando visto che hai messo una stellina, però dovevo dirtelo. Ok, dopo questa bella lamentela, io vi lascerei all'ultima canzone, senza la sigletta di chiusura solita. Voglio chiudere adesso con una canzone. È una canzone molto lenta e, insomma, rilassante. Vorrei lasciarvi così, in attesa del prossimo Nerdcast numero 10, che spero arrivi in questo caso. Prima delle vacanze, se non siete già in vacanza. Vabbè, allora, chiudiamo. I contatti ve li ho ricordati. Mi raccomando, Nerdocast con una O, una O tra nerdcast @gmail.com. Noi ci risentiamo a Nerdcast Extra, almeno spero. Chiudiamo con i Pastels. Questa è About You. E noi ci sentiamo prossimamente. Ok? Bye bye. Yeah.